Signori e signori, buone visioni. Arrivederci. Carissimi amici di Iceberg News, un piovoso, un nevoso, un... fresco! Sempre staremo con oso, ma... anche oggi. Un Alleger! Paolo Travagnini. E Marino Midena. Ed eccoci qui, siamo giunti, nuova, ennesima puntata di Iceberg News. I contatti immediatamente, prima di passare la parola a Marino per il sommario di questa ricchissima nuova puntata. Come sapete, il contatto telefonico 339-3990-836 per essere con noi e per comunicare proprio così direttamente, velocemente. Per comunicare attraverso l'email, perciò attraverso il mezzo telematico, info@icebergnews.it, naturalmente desumibile dal sito www.icebergnews.it. Un po' di inglese non fa mai male. E visitate il sito perché chiaramente tutti gli aggiornamenti della nostra visibilità e alcune novità sono proprio sul sito. Mentre per quanto riguarda il vostro materiale, che come al solito si sta aggiungendo copioso, e noi siamo veramente grati e vi ringraziamo di cuore del vostro materiale che ci inviate, noi lo apriamo, lo scartabelliamo, ce lo gustiamo proprio con tutta l'anima. E potete inviarlo a Iceberg News, alla mia attenzione, di Paolo Travagnin, via Ennio Bonifazi 36/500167 Roma. Per quanto riguarda invece la nuova iniziativa di Iceberg News, perciò Torto Corti in TV, che sta andando molto bene, ve ne parlerà Marino tra un po'. Ma subito la parola a Marino per in regia, che ci racconta che cosa succederà questa sera, ricchissima puntata. Marino, ci sei? Sì, eccomi Paolo, sono qui in regia. Come dicevi bene, ricchissima puntata, parleremo di moda e cinema con le news, il solito appuntamento con la musica, con il videoclip di Manuel Lauteri, Timoria ti dice qualcosa, con la canzone Love. E poi avremo un corto dei nostri amici della Scuola di Cinema di Roma, di Via Panisperna, Matriosca, di due giovani, molto interessante. E poi parleremo soprattutto di libri con uno scrittore, Stefano Lazzarini, che ci presenta la sua ultima fatica, Asma, e con un editore che è Fabio Nardini della Catap Edizione. Quindi, come vedi, spaziamo grandissimo. E dici bene, Torto ha molto successo, quindi io invito anche a tutti i filmmaker di mandarci i cortometraggi, poi durante il corso della trasmissione passeranno i messaggi per dove mandarlo e poi naturalmente potete visionare il sito www.iceberg.it. Paolo, ti passo subito la parola. Certo, grazie Marino e ti ringrazio dei puntuali sommari che ci regali. Come dicevi tu, Manu Lauteri è effettivamente l'ex leader di Timoria, un grande personaggio, un musicista, un giovane musicista italiano che con questa Love ci presenta e ci anticipa il suo secondo lavoro discografico, il video Love. Diciamo che è un consiglio a non lasciarsi troppo prendere dal virtuale, insomma, cerchiamo di mantenere una linea e di mantenere un po' i piedi per terra, come dice lui, di camminare con i piedi nudi per terra. E ci gustiamo questo bel video, sonorità pop rock italiane, con un pizzico, una manata, si può dire, proprio una plettrata di un grande chitarrista italiano, Ricky Portera, che è proprio un guest nel video. Ci vediamo live, ci ritroviamo qui tra qualche minuto. Ciao! questa foto qui girata a me. Hai nei tuoi occhi una speranza che io vuoi perdere. Voglia di restare qui con te, di fare di ogni attimo un perché e scrivere un messaggio nuovo che dirà International Music Institute festeggia i suoi 25 anni di attività didattica con grandi promozioni dedicate soprattutto ai telespettatori di Iceberg News. Per informazioni visitate il sito www.imionline.it oppure recatevi nelle sedi di Viale Liegi 5 0688 45788 oppure di Via Massa San Giuliano 584 a Castelverde 06 2261 205. International Music Institute è ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione. Iscriviti ai corsi di arte comica, teatro e cabaret dell'Accademia del Comico di Roma, di Max e Francesco Morini, per ridere, far ridere e vivere meglio. Telefono al 347-12-22-239, www.morinibros.it, Accademia del Comico di Roma. Il torchio sardo, tutti i sapori della Sardegna, dal pesce fresco al maialino, dalla ricotta al forno ai formaggi tipici, il tutto accompagnato da vini regionali selezionati, grappe e liquori. Il torchio sardo, ristorante e pizzeria, via Rigo d'Avila 8187, telefono 0678 57140. Il torchio sardo è a Roma. Ed eccoci rientrati in Iceberg News, vi siete gustati il videino, eh? Carino. Carta, penna, pronti per la news, opportunità di lavoro. Forse vi ricorderete, per gli amanti del cinema, vi ricorderete Vado a vivere da solo, Jerry Calà, un bel film, un bel vecchio film. È in preparazione la sequela, il ritorno, torno a vivere da solo con Jerry Calà, perciò tutti gli attori, attrici che volessero proporsi per essere con Jerry Calà su questo nuovo film possono farlo scrivendo e mandando foto e curriculum all'indirizzo che vedete in sovrappensione, Alex Intermite Entertainment Communication, via privata del Costino senza numero civico 26900 Lodi, chiaramente alla cortese attenzione di Alex Intermite. Se non avete avuto tempo di scrivere o di prendere nota, chiaramente mandateci un'email, insomma ricontattateci che saremo felici di ridarvi i contatti. Ma immediatamente passo la parola a Marino che ci parlerà di questo bel libro con il nostro graditissimo ospite. Sì, parliamo di asma e parliamo soprattutto di un ritorno, perché l'ospite di stasera è un amico, perché abbiamo già avuto la fortuna di ospitarlo un po' di tempo fa, non diciamo quanto. Però oggi lo vediamo in una veste completamente nuova, almeno inusuale per noi, perché lo vediamo nella veste di scrittore. Stefano Lazzarini è qui accanto a me, eccoci qua. Stefano, ti ritrovo scrittore, insomma, questa bellissima fatica, immagino. Sì, ecco, fatica è la parola. Asma. Esatto. Catappa Edizioni. Esatto. Raccontaci un pochino il libro. Il libro, essendo 280 pagine, non so. No, il libro è un thriller, è una storia noir in cui un poveraccio si trova di fronte a degli avvenimenti più grandi di lui. E i temi trattati sono soprattutto la solitudine, la violenza nei rapporti, insita nei rapporti nella grande città, e quindi il soffocamento che comporta vivere appunto nelle grandi città e il senso di straniamento e di smarrimento che ne deriva. E poi, se posso, vorrei sottolineare un aspetto molto importante che dà grande attualità anche al libro, è che tutto il movimento della suspense si muove intorno a degli incidenti stradali. Esatto. Un tema che purtroppo oggi sta sulle pagine dei giornali, è capitata da poco la disgrazia di questo bambino sfortunatissimo investito, e il motore appunto è molto spesso del tuo libro trae spunto da incidenti stradali. Sì, esatto, questa è una tematica alla quale sono molto legato, anche se non ho avuto insomma dirette esperienze, però la sento veramente forte, perché appunto non c'è, le pene non sono commisurate ai comportamenti, secondo me, in questo ambito, tant'è che alla presentazione del romanzo è stata presente in forma ufficiale anche l'Associazione Nazionale Familiari vittime della strada, che tra l'altro ha in programma una serie di iniziative volte proprio alla sensibilizzazione, ad una guida molto più responsabile di quanto non sia oggi, sia nelle città che fuori dalle città, con insomma, i fenomeni quali le stragi del sabato sera, ma non solo, perché in realtà gli incidenti gravi avvengono tutti i giorni, quindi non vorrei che poi sembrasse soltanto un segmento di popolazione interessato da questi drammi, ma non è proprio così. Anche andando in giro in città, attraversando sulle strisce, camminando sul marciapiede, si possono correre dei gravi rischi, e quindi chi si comporta così, si comporta in maniera criminale, va assolutamente, deve partire dal basso, proprio una, secondo me, una forza che arrivi piano piano, culturalmente, con la forza delle idee, a cambiare questi comportamenti. Però, diciamo così, l'assassino del tuo libro non è casuale, mi sembra, che lui... No, questo non è casuale, questo si tratta chiaramente di fiction, quindi non è un saggio, e viene inserito questo aspetto all'interno di una trama che è molto nera, è molto... c'è molto thrilling dentro, e quindi in maniera indiretta che avviene, che questo aspetto viene trattato, quindi mi interessa però l'argomento, perché lo ritengo veramente importante. A me è piaciuta molto anche la strutturazione del libro, questi siparietti, chiamiamoli così, tra i due personaggi, il buono e il cattivo, il poliziotto e l'assassino. Sì. Mi è sembrata anche una costruzione molto cinematografica. Sì, no, hai colto nel segno, perché quest'opera nasce come trattamento cinematografico, tant'è vero che aveva accolto l'attenzione di un'importante casa cinematografica, e che ha anche una casa editrice, e che poi per una serie di motivi, diciamo, questo contatto non è andato in porto, però speriamo che in un futuro Asma veda anche la luce sotto questo punto di vista. Eh sì, perché i film che parlano di stragi su strada o di killer stradali ce ne sono, insomma. Ricordiamo, anche se non era proprio una storia di killer, Crash di David Cronenberg, esatto, in cui c'era questo culto della mutilazione, sì, da incidente da auto, ma ci sono state anche Highway Man e così via, insomma. Sì, sì, alcuni... Ah, scusa se ti interrompo. No, assolutamente. Ricordiamo anche Duel di Spielberg, Duel per dire, il top del riferimento alla suspense. Sì, ripeto, diciamo, gli incidenti sono una... cioè, il plot è un thriller, però ci sono tanti aspetti, ecco, viene descritta molto bene, cioè viene descritta approfonditamente anche l'atmosfera nel quale questo si svolge, che è una Roma un po' nera, una Roma un po' oscura, una Roma che viene vista dal basso, e che quindi spero che chi ci vive o chi anche non conosce Roma ci si può rapportare con interesse, diciamo. Quindi io suggerisco di andare a cercare nelle librerie, sì, Asma, Catap Edizioni, Stefano Lazzarini, perché è veramente una scoperta, quindi una un piccolo suggerimento di iceberg. Come suggeriamo un'altra cosa, adesso Paolo vedilo insieme a noi, un cortometraggio della scuola di cinema Matrioska. Io prima di dare la palla al cortometraggio saluto Stefano, ma solo momentaneamente perché lo obblighiamo a rimanere con noi anche nella seconda parte della trasmissione. Matrioska, scuola di cinema di Roma, via Panisperna, quindi l'opera di due giovanissimi registi, Mirko Virgili e Samuel Masi. Vediamocelo insieme, un tema molto forte, una morte apparente per droga, eccolo. Che stai facendo? Perché? Tu lo fai sempre. Devo dare un po' con papà. Ma che cazzo dici, pa? Vai a dormire, che hai fatto solo un brutto sogno. Vai. Ma cambiamo decisamente pagina, ancora emergenza droga. La scorsa notte in una camera d'albergo del litorale romano è deceduto il 25enne Aldo Carboni, secondo i medici per un'overdose di cocaina. Attualmente è stato di fermo alcuni suoi giovani compagni, i quali verranno presto interrogati dal magistrato. Un brutto sogno. Dell'ultimo momento che ci giunge direttamente dal mondo brutto del sogno. Sconvolgerà l'ambiente del calcio. C'è stato un clamoroso fallimento della Società Sportiva Lazio. Stavo aspettando. Dove sono i miei amici? I tuoi amici sono andati via già da un pezzo ormai. È uno scherzo, vero? Vedi quella matrioska? Quella matrioska sei tu. Sei nel sogno di un sogno. La gente pensa che tu sia morto. Non riescono a svegliarti. Non sapranno mai che sei ancora vivo. E quando tu lo scoprirai, sarà troppo tardi. Dove sono i miei amici? I tuoi amici sono stati portati via dalla polizia. Sono stati molto più fortunati di te. sei incastrato proprio qui. Dove sono i miei amici? I tuoi amici ti hanno lasciato questo. Fabrizio Brugnoni vi attende nella sua showroom di via Nettunense 23-25. Troverete strumenti musicali, editoria, accessori e tanti pianoforti. Accordature e restauri, ma anche vendita. Da Brugnoni Pianoforti, 06-93-54-7715. Per maggiori informazioni, www.brugnonipianoforti.com. Brugnoni è anche scuola di musica, omaggi e trattamenti particolari per i telespettatori di Iceberg News. Scuola di Cinema di Roma. Corsi di formazione per il cinema e la televisione. Recitazione cinematografica, regia, ripresa, montaggio, produzione. Scuola di Cinema di Roma. Per entrare nel magico mondo del cinema e della televisione. Scuola di Cinema di Roma. Via Panisperna 101. Chiama allo 06 4815 676. Manda un'email a info@scuoladicinema.it. Eccoci qui di nuovo in studio, rapidissimo, quindi carta e penna immediatamente, un'opportunità per gente molto bella, fotomodelli, fotomodelle, per un catalogo di occhiali, quindi l'unica fortuna è che non servono persone molto alte. Se volete partecipare, scrivete un'email a info@francescasani.it. In bocca al lupo. Grazie Marino, e ti prendo la scena per... come dicevi appunto poc'anzi, per essere qui presente con questi due nostri validissimi e interessanti ospiti questa sera. Stefano Lazzarini abbiamo conosciuto poco fa con Marino, che con il suo bel libro, eccolo qui, e mentre qui alla mia destra Fabio Nardini, e abbiamo citato proprio editore non solo proprio del libro di Stefano Lazzarini, giusto? Catapedizioni. Io rivolgo subito una domanda immediatamente a te, come editore, ma come, anche come interesse proprio nella vita del libro. Secondo te perché si scrive un libro? Si scrive un libro per tanti motivi. Si scrive un romanzo per i motivi anche che ha spiegato Stefano poco fa, per dare voce a, a un'emozione, a una suggestione, a una propria idea che in qualche modo deve essere espressa, deve essere messa su carta, deve essere messa, nel caso di un romanzo, in forma di fiction, di letteratura. Certo. Ma scusa. Sì, sì, dimmi pure. Ti stavo per chiedere che libri preferisci pubblicare. Noi abbiamo sviluppato nel corso di questi anni come casa editrice una nostra linea editoriale che è orientata da un lato sul libro per immagini, quindi sul fumetto, sia albi che volumi più ampi, più grossi, più corposi. E l'altra linea che è stata sviluppata più recentemente è quella del romanzo, della narrativa soprattutto di genere, intendendo genere noir, genere horror, genere di fantascienza, cioè tutta quella letteratura molto basata sulla forza della storia, sulla forza della narrazione. Queste sono le due linee e sono chiaramente che abbiamo scelto e sono ovviamente il tipo di libri che mi piace leggere, che mi piace fare. Poi probabilmente successivamente cercheremo anche di sviluppare una linea nostra sulla saggistica, quindi sulla fiction, sulla narrativa, certo. Ma sul molto, molto interessante. www.cat-net.app.net catapp.net, esatto, che lo vedete anche in sovrimpressione, perciò sul sito penso che i nostri amici a casa possono anche andare a curiosare e a trovare altre interessanti. Sul sito c'è tutto, le nostre, certo, novità e recensioni, informazioni, è un portale culturale, diciamo. Ma sbaglio o Catap Magazine esisteva, questo magazine dell'immaginario? Esisteva, ma esiste tuttora, in realtà come sito, come sito web. Esisteva in forma cartacea, adesso l'abbiamo sospesa, non è detto che non la riprendiamo in un futuro. Era un semestrale che trattava sostanzialmente gli argomenti di nostro interesse, quindi fumetto, letteratura, ma anche cinema, informazione culturale, e che abbiamo sospeso perché i tempi del semestrale erano troppo dilatati rispetto alla rapidità degli eventi culturali, quindi il sito ci permette invece di essere veramente aggiornati in tempo reale. Perfetto, ti ringrazio, come al solito noi siamo sempre di corsa perché i nostri 30 minuti stanno per scadere, per esaurirsi, e avremo come al solito ore e ore di discussioni aperte, ma ci ripromettiamo sempre di continuarle, di farle in un futuro. Io penso che Marino, che ci è venuto a trovare qui in compagnia, approfitto della chiusura prima dei saluti per ricordare, esatto, Torto, questa nostra iniziativa per promuovere i cortometraggi in TV, Torto, Corto in TV. Se volete, se potete, se avete un cortometraggio, inviatecelo a questa casella postale, Marino Milena, casella postale 4205, Roma Appio 00182, Roma. Quindi aspettiamo, stanno arrivando tantissimi. Anzi, è un'iniziativa poi soprattutto di grande qualità e spessore, non per merito nostro, ma perché i nostri partner sono 35 mm, il mensile che trovate Free Press nei migliori cinema, e Roma C'è, che a Roma è un vero e proprio culto. Quindi grazie a loro stiamo vedendo tanti bei film. Tanti bei cortometraggi. Perfetto. E io in chiusura ricordo la nostra grande partecipazione con Dune, il nuovo locale che è aperto, eccolo qui, a Piazza Santissimi Apostoli 52. C'è anche un sito, Dune Restro. Comunque andate a cliccare sul nostro sito, c'è il link, e andate a scaricarvi tutto il programma. Vi ricordo uno dei pochissimi, anzi forse l'unico locale, dove si entra gratuitamente, senza tessera, con una grandissima programmazione musicale di qualità. Perciò la prossima settimana, tra l'altro, avremo il direttore artistico qui con noi. Benissimo, benissimo. E anche un corto. Siamo in chiusura, non abbiamo più tempo. Allora perciò, facciamo un bel saluto letterario questa volta. Un bel Allegher. Un bel Allegher tutti pronti? Insieme. Un, due, tre. Allegher!